ore 21 e 04 minuti primi. Quindi, come tutti i giovedì sera, siete in compagnia di Maurizio e di Elio e soprattutto di Pianeta DJ numero 2. L'appuntamento del giovedì sera con le classifiche di due radio ascoltatori. No, intanto ci sono degli assestamenti di tono qua. Io sì, mi sento un attimino regista. Troppo metallico. Sono metallico, sentiamo se mi sento meno metallico. Senti? Regista? Senti. Regista? Vadi? Mi faccio meno metallico, grazie. Va bene? Come va bene? Non mi ha toccato niente. Va bene così. Va bene così. Ok, iniziamo subito a conoscere gli ospiti di questa sera. Quindi parola all'acquario, parola a Manuela. Ciao Manuela. Ciao. Da dove vieni? Da Brugherio. Dove? Via De Gasperi 18. Non so, vuoi dare anche il piano? Va bene. Appartamento numero? No. Quindi Manuela di Brugherio, anni? 17. 17. No, volevo chiederti, per venire qui prendi l'ascensore o... No, io non ti vedo, c'ho davanti in... Jacques de... Ah, ecco, adesso sì che ti vedo. No, mi togliere tutto. Metti un pezzo di scotch. Fai qualcosa. Benissimo, allora abbiamo detto, prendi l'ascensore per venire qui o sì, per arrivi direttamente... Sì. Ah, no, quindi non abiti a piano terra, basta. Detto questo, non andiamo più avanti. Secondo ospite... Elio, quindi un altro Elio, abbiamo due Elio questa sera in trasmissione. Oggi siamo in due, quindi no, abbiamo noi. Bisogna trovare una soluzione. E che soluzione troviamo, Maurizio? Vediamo. Potremmo cambiarti un po' la voce. Dici? Vediamo. Vediamo un po' se ci riesci. No, vediamo se va bene così. Prova. No! No, rimetti com'era. Ci intenderemo alla meraviglia. Maurizio? No, così va bene. Va bene, dai, vai. E invece Elio, di dove sei? Io sono di Milano. Milano? Milano, abito vicino a Corso Buenos Aires. Abbiamo capito. Ecco, lui prende l'ascensore, va in metropolitana e viene qua. Viene qua da noi. Età, si può dire? Ricia? 26. 26 anni, quindi 17, 26.